Whoa.

Thank you. lo sarebbe molto più facile se potessi. Si potrei attribuire dal fondo a colui che do anything, just depend on the fact. Often I don't know what I'm talking about. C'è la Ferrari e la Lamborghini, e poi c'è la Sace, e c'è anche la Fiat, che è anche la nostra sfiga. c'è anche il parmigiano. Lo conoscete tutti il parmigiano? Do you know parmigiano? Parmigiano reggiano. No, no. Michael Basin, you know, I know a few words in Dutch. I can say dankwel, and I can say loop another hell. Thank you. Mama, come on, come here. Take the sticks in your face. Take the stick in the face. I can throw a keyboard to my ex-wife. Nothing. Thank you.